Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Si intitola Lei e lui, scritto tutto attaccato ed è l'ultimo romanzo di Andrea De Carlo, pubblicato da Bompiani. Uscito da poco e già ai vertici delle classifiche dei libri più venduti. De Carlo si conferma dunque uno degli scrittori più amati in Italia. Suoi sono successi come Treno di Panna, Due di Due, Di Noi Tre, Tecniche di Seduzione. Lei e lui è un romanzo piuttosto corposo, sono 568 pagine e racconta sostanzialmente una storia d'amore con tutte le difficoltà del caso. Ecco come De Carlo ci parla del suo libro. Io volevo raccontare una storia di un incontro, scontro fra un uomo e una donna, o meglio una donna e un uomo, e avevo l'idea di raccontarla da due punti di vista che si alternano, vale a dire di capitolo in capitolo, passando attraverso la sensibilità di lei e quella di lui. Poco alla volta i due personaggi sono emersi, sono definiti, come succede nel mio modo di scrivere almeno, poi ogni scrittore ha un suo modo di tirar fuori le storie che ha nella testa. Da lì è nata poi la trama. Quello che mi succede di solito è che scrivendo è come un viaggio di scoperta, come viaggiare attraverso la giungla con un machete in mano. Poco alla volta, quasi metro per metro, mi si apre la strada davanti. Difficilmente prefiguro prima tutto il percorso. Ecco, questo gioco di alternare i capitoli, uno dal punto di vista di lui e uno dal punto di vista di lei, ti sei trovato dei momenti in cui la stessa situazione, lo stesso gioco di sentimenti o di emozioni era visto in maniera completamente diversa da parte maschile e da parte femminile? Sì, direi sempre, cioè ogni volta che in realtà ci sono alcune situazioni che per esempio sono spaccate in due, a un certo punto c'è per esempio lei che racconta, diciamo, o almeno sentiamo la storia attraverso di lei, quindi attraverso le sue percezioni, attraverso le sue interpretazioni, e poi la riprendiamo dal punto di vista di lui e la cosa è radicalmente diversa. È quello che succede quando provi a immaginarti nei panni di una persona che è in una condizione opposta alla tua, come succede a un maschio immaginandosi una donna o viceversa. E tu come ti sei sentito nei panni, così fra virgolette, di una donna? Beh, ecco, quando uno comincia a immaginarsi in quei panni, comincia a vedere le cose in modo molto diverso. E la prima, diciamo, il primo effetto è vedere gli uomini in modo molto diverso. E quello che mi è successo, in particolare, è di vederli molto male. Quindi insomma una donna tipica che vede l'uomo in maniera assolutamente o quasi negativa, insomma, con tutti i suoi difetti e le sue mediocrità. Sì. Sono venuti fuori tanti aspetti dell'uomo su cui mi capita di riflettere da uomo, quindi spesso dissociandomi o non identificandomi con altri uomini, ma fare l'esercizio mentale di vedere dal punto di vista di una donna è una cosa che io consiglierei a qualunque uomo, indipendentemente dal fatto che scriva o legga, ma insomma leggendo certamente un lettore maschio che legga Lei e lui ha l'occasione di vedere certe cose da un punto di vista, secondo me, piuttosto sorprendente. E poi anche naturalmente una lettrice donna ha la possibilità di vedere qual è il suo punto, qual è il punto di vista maschile della situazione. Sì. Noi stiamo parlando di questi Lei e lui, però non li abbiamo ancora presentati. Vogliamo dire due parole su chi sono i protagonisti? Sì, lei si chiama Claire Mollet e ha un nome americano perché è nata in America, benché abbia un'origine italiana, come dice il suo cognome. È una donna che si è trasferita in Italia per amore, perché si è sposata giovanissima, dopodiché ha rifatto questa cosa più di una volta, perché poi l'amore nel matrimonio è finito, ha lasciato il lavoro. Quando questa storia inizia, è forse al terzo tentativo serio nella sua vita di rifarsi, quindi si è trasferita a Milano ed è lì che inizia la storia, alla periferia sud-ovest di Milano. Quando addosso alla macchina in cui è lei col suo fidanzato arriva la macchina di lui, e lui è Daniel Deserti ed è uno scrittore che è arrivato a un punto di... È arrivato alla frutta, come, come si dice, brava, una buona definizione, perché è arrivato al punto in cui detesta il suo lavoro, odia se stesso come persona, odia il suo editore, non sopporta più i suoi lettori, in generale in un punto di crisi apparentemente irreversibile. Niente di autobiografico, naturalmente. No, però naturalmente, facendo lui lo scrittore, diciamo, ci sono vari punti di contatto per cui ho potuto immaginarmi molto realisticamente cosa mi succederebbe se arrivassi a non credere più in quello che faccio, eppure a restare imprigionato nel ruolo di scrittore. Se arrivassi appunto a odiare le persone che leggono i miei libri, cosa che per fortuna non è. Però è una cosa che succede, non è che sia così altamente ipotetica. Ci sono scrittori che odiano i loro lettori, che odiano il loro ruolo e quello che fanno. Nella bandella, insomma, nella seconda di copertina, tu scrivi proprio in prima persona: volevo raccontare le ragioni, i dubbi, le contraddizioni profonde che una donna e un uomo di oggi si trovano a fronteggiare quando gli capita di innamorarsi davvero. Insomma, quali sono questi ostacoli enormi che si incontrano quando nasce un sentimento così vero e profondo? Beh, io credo che sia sempre stato difficile, poi non è che io pensi che oggi in particolare. Oggi ci sono alcune caratteristiche che rendono più difficile a un uomo e alla donna costruire qualcosa da un iniziale momento di interesse o di curiosità reciproca. E le ragioni sono le contraddizioni folli che ci sono oggi, esasperate secondo me. Contraddizioni per esempio in termini di ruoli, per cui oggi una donna ha addosso ancora le richieste che tradizionalmente le pesavano addosso, cioè di essere attraente, di essere femminile, accogliente, di occuparsi degli altri e degli uomini in particolare, ma poi ha addosso tutte le richieste che hanno anche gli uomini, vale a dire di fare una carriera, di essere competitiva, brillante, efficace. Gli uomini da parte loro hanno rinunciato molto volentieri, dopo uno shock iniziale, al ruolo tradizionale del protettore, del procacciatore di cibo, del rassicuratore, e sono regrediti, secondo me, in gran parte, non tutti, ma in gran parte, a un ruolo infantile. Ed è una delle considerazioni che c'è dentro questa storia. Però a questo punto un sentimento vero può aiutarli a uscire fuori da queste loro nevrosi anche? Io mi auguro di sì. In realtà poi lui non è affatto una storia pessimista, nel senso che io poi non sono, credo per spirito mio, pessimista, quindi non è che veda tutto nero e consideri impossibile che nasca un amore vero fra una donna e un uomo oggi e che poi soprattutto si possa sviluppare in qualcosa di più. Però so che è molto difficile. Ecco, volevo parlare molto delle difficoltà, ma anche del desiderio intenso che credo ognuno di noi ha ancora dentro, malgrado tutto. E, insomma, questo desiderio di una grande sorpresa. Ecco, guardando un po' alla tua carriera, ricordiamo che il tuo primo romanzo, Treno di Panna, del 1981, se non erro, è stato battezzato da Italo Calvino, insomma, un battesimo di tutto rispetto. Guardando a tutti i tuoi romanzi che hai scritto e guardando anche a questo, c'è un legame in tutta la tua opera o cerchi di fare sempre qualcosa di diverso? Ma io ogni volta che comincio a scrivere un romanzo nuovo sono molto consapevole del fatto che bisogna raccogliere la sfida ogni volta di scrivere una storia diversa, cioè di non continuare a ripetere la stessa formula, che magari poi è piaciuta per esempio ai tuoi lettori. Però poi è inevitabile che ci siano dei fili che legano un romanzo all'altro. Intanto perché sono io che li scrivo, quindi quello che succede è che le mie manie ricorrenti, il mio modo di osservare il mondo e le persone sono presenti di romanzo in romanzo. Per quanto la storia cambi, per quanto la trama sia diversa, i personaggi possano non assomigliarsi, ma c'è sempre qualche tratto che li apparenta in qualche modo. Andrea De Carlo, scrittore, che abitudini ha? Che vizi ha? Vizi, devo dire, mentre scrivo, non tanti. Magari forse quello di mangiare cioccolata amara, che ho scoperto che è una cosa che è comune a vari scrittori. Credo che ci sia qualche ragione chimica dietro questo. Per il resto non c'è niente di particolarmente suggestivo, perché lavoro di giorno, quindi come per fare un altro lavoro, lavoro dalla mattina alla sera, per esempio non lavoro di notte, non scrivo a lume di candela. Insomma, l'immagine dello scrittore così un po' problematico che lavora di notte, solo quando ispirato. Credo che naturalmente scrivere romanzi si basa sull'ispirazione e senza quello non fai niente, però quello che ho scoperto e che scopre credo ogni scrittore è che l'ispirazione devi renderla possibile, quindi devi creare delle condizioni in cui si possa sviluppare. C'è una quotidianità artigianale nello scrivere, come in qualunque altro lavoro, che forse un lettore a volte non immagina, perché pensa allo scrittore come a qualcuno baciato da qualche forza superiore. Credo che quella forza superiore tocchi chiunque inventi una storia, ma credo anche che poi a chi la racconta sia indispensabile lavorarci sodo in modo molto quotidiano. E questo era Andrea De Carlo, ora in libreria con Lei e Lui. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.